inferno Penelope, a fare disfare la tela che fu la mia vela fin qui. Eccomi, che cerco miei tacca, che lunga la strada, che stretta è la via per casa mia. Cadono giù come coriandoli, le stelle stanotte si inventano rotte soltanto per me. E io cosa so, moderno Telemaco, del mare del mondo oscuro e profondo che è dentro di me. Che sento, è una voce che mi chiama dalla proda di una terra promessa e dal niente bisbiglio di una trama. E vedo l'utopia di un orizzonte che santifica la strada maestra e confonde il traguardo e la ragione. Cantami, o diva magnifica, del fatto che mischia, che nega, che svela le opportunità. Eccomi, destino volubile, tallone d'Achille di questa mia vita che amare mi fa. Dal segreto ordito di una trama e vedo l'utopia di un orizzonte che santifica la strada maestra e confonde il traguardo e la ragione. Io sono grande senza meta, la metà di un'occasione mancata che a nessuno mai mancherà.